24 mattino. 24 mattino, Luca Telese in diretta, e stiamo parlando del cuore di tutta la politica italiana che si agita intorno alle elezioni in Sicilia, e c'è oggi un personaggio del giorno in queste cronache che è Claudio Fava. Buongiorno. Eccomi, buongiorno. Claudio Fava, neocandidato del Movimento dei Democratici e dei Progressisti, della sinistra, di Sinistra Italiana, di Rifondazione in Sicilia, dando un dolore tremendo a Pisapia, che ieri ha strappato, ha rilasciato dichiarazioni abbastanza irate nei confronti di Pierluigi Bersani proprio sul suo nome. Claudio Fava ha un senso di colpa per aver prodotto questo maremoto a sinistra? Assolutamente no, anche perché io sto alla lettera delle cose che ieri diceva Pisapia e che condivido. Pisapia chiede che non ci siano alleanze innaturali e che ci sia un segno di forte discontinuità e cambiamento nel progetto politico in Sicilia. Ma ci stiamo candidando per obbedire a queste due indicazioni. Crediamo che l'alleanza con Alfano e col suo partito siciliano, che non è soltanto Alfano, sia un'alleanza totalmente innaturale, e crediamo che la presenza di Crocetta con la sua lista dentro quella coalizione sia un segno di continuità, non di discontinuità. È quello che ha detto anche Bersani nelle sue dichiarazioni, dicendo: il nostro elettorato non vuole sentirne parlare di Alfano, è un'alleanza che produce solo danno, che porta la gente all'astensione. Può spiegare veramente, uno che non conosce tutti i precedenti, perché in Sicilia, lei dice, l'alleanza con il movimento di Alfano è un handicap per la sinistra, secondo lei? Intanto Alfano credo che rappresenti un percorso abbastanza particolare alla politica italiana negli ultimi anni, da 10 anni ministro, assente nelle funzioni di ministro, presente soltanto come capo popolo e capo partito, e la Sicilia diventa il terreno in cui lui deve consolidare questa sua forza. Ecco, considerare tutto questo come un baratto necessario mi sembra abbastanza umiliante per chiunque, soprattutto per i siciliani. Ma siete voi che avete... Che in Sicilia è stato capace anche di trattare il dramma degli immigrati come un business sul quale lucrare preferenze, scambi elettorali, favori e prebende, con un'inchiesta pesante in corso riguardo un suo sottosegretario. Insomma, sembrano cose che richiedono un po' di coerenza e di dignità, per cui andarsi ad alleare con questa gente in Sicilia solo perché così hanno deciso su un tavolo romano mi sembra una cosa che sia il caso di evitare, se possibile. Ma siete voi che avete rotto perché avevate deciso di correre separatamente, come dicono alcuni dirigenti del Partito Democratico, o è il PD che ha preferito Alfano all'alleanza con voi? Il PD ha preferito Alfano e noi in Sicilia, ma a Roma. A Roma si chiudono i cerchi delle discussioni sulla Sicilia, come se fosse davvero l'ultimo vicereame borbonico. A Roma si decide di regalare a Crocetta qualche seggio al Senato pur di averlo in vista, a Roma si decide di prendersi i voti siciliani a Alfano offrendogli una percentuale d'accesso al Senato più bassa di quella che era prevista, a Roma si organizza uno scambio in cui la Sicilia è soltanto carne da macello per far quadrare alcune geometrie romane. Si diceva che il più grande avversario della sua candidatura, ho letto in alcuni retroscena De Marchis su Repubblica e altri, fosse Massimo D'Alema. Adesso scopro che fate addirittura un comizio insieme già giovedì. Ma questo dice lunga anche un po' su questo nostro mestiere, su un giornalismo che spesso non è nemmeno gossip, è un tentativo di guardare al buco la serratura e spesso è una stanza sbagliata. Io ho letto. Però può capitare che ci siano delle antipatie, dei rancori politici e poi magari vengono superati. Lei non ce lo direbbe? Diciamo, è complicato che vengano superati in 24 ore organizzando l'apertura campagna elettorale insieme ad Alema e a Messina. È più semplice che abbiano sbagliato il buco della serratura quando hanno guardato e orecchiato chiacchiere da palazzo. Bene, l'argomentazione che la inseguirà in tutta questa campagna, lei lo sa e quindi a noi interessa perché vale anche a livello nazionale, è: sì, Fava, una bellissima persona, un'ottima candidatura, però lui lo sa che in un turno unico candidandosi rischia di far vincere la destra o i grillini, insomma di farci perdere? Cosa risponde? Io so che mentre va a fare vacanze in montagna con mio figlio e quindi diciamo ponendo soltanto il monoscopio, il televisore spento, i sondaggi ci davano il 10%. Chi era già in campo da tempo con l'invincibile armada come il rettore era fermo al 17-18%. Io credo che ci sia una grossa illusione negativa sulla Sicilia, che cioè gli elettori siano considerati tutti numeri già indicati in caselle precostituite. Penso che ci sia un grosso spazio per un voto d'opinione libero che non è quello che vuole salvare l'onore della sinistra. Cioè lei pensa di poter sorpassare Micari, il candidato di Renzi? Assolutamente sì, perché che ai siciliani Micari sia il candidato di Renzi o Fava sia il candidato o meno di Pisapia non frega nulla, ma non frega nulla sul piano della buona logica, frega sapere chi sono Fava, Micari, Musumeci, chi si portano dietro nella loro proposta di governo, quali persone li affiancano alle photo opportunity quando bisogna candidarsi, quale zavorra esista rispetto al passato e quale proposta di novità e di discontinuità esista rispetto al futuro. E penso una buona parte dei siciliani siano disposti a scegliere questo. Da 1 a 10 quante possibilità ci sono che la sua candidatura venga ancora revocata per creare un'alleanza più grande? La mia candidatura. No, da lei, no, che magari sì, sì. Da cioè, me che... zero. Ah, da ecco, me zero. Nel senso che il dado è tratto. Sì, ho detto, insomma, ho accolto volentieri l'invito di Micari di confrontarci, di parlarci, ma anche per una cioè, civiltà condivisa di modi. Se da quella parte fossero disposti a ricostruire un perimetro concreto e omogeneo di centrosinistra fuori Alfano e dire noi siamo in campo per sancire una netta discontinuità rispetto all'esperienza Crocetto, ho detto sarei anche disposto a primare con Micari. Mi sembra complicato che decidano di mettere alla porta Crocetta e Alfano pochi giorni dal voto, però insomma, non sono cose che ci inventiamo adesso come provocazioni. E il senso di una discussione politica è andata avanti per 2 mesi e che poi si è conclusa con la loro scelta. Sì, ad Alfano, viva Crocetta, in continuità con un governo che nessuno di loro giudicava bene, ma che adesso tutti considerano indispensabile come esperienza a cui fare riferimento. Fava, ma lei non era vicino a Pisapia, diciamo, come posizioni politiche in questi giorni? Ci ha parlato al telefono? Possibile che proprio sulla sua candidatura, cioè di una persona che ha espresso anche un favore per il suo progetto, proprio su questo Pisapia dica no, preferisco l'alleanza fra il PD e il movimento di Alfano? Sono tra i pochi che lo ha difeso senza alcuna ambiguità quando è stato grossolanamente attaccato per avere salutato, abbracciato l'abbraccio con la Boschi e poi Martini, insomma, senza rendersi conto che nella politica esiste una civiltà di modi che va ben oltre le ostilità, le diffidenze, le separazioni. A questo punto io sto dentro quello che Pisapia ha detto fino a qualche settimana fa, vogliamo costruire un centro-sinistra che abbia un suo segno di omogeneità. Alfano rispetto a tutto questo è ultroneo ed estraneo, l'ha detto, e se lo ha detto in Italia, siccome credo che la Sicilia di questa Italia, di questo panorama politico non solo sia parte integrante ma parte consistente, perché i giochi politici più significativi si fanno sulla pelle dei siciliani o spesso utilizzando la Sicilia come laboratorio. Io ho pensato che fosse giusto applicare con coerenza le cose che aveva detto a Roma anche a Palermo. Ma non vi siete parlati? Possibile che non vi siate parlati? Non sono riuscito a trovarlo. Insomma, non si è fatto trovare? No, è in vacanza, punto. Il problema non è che uno quando sta in vacanza ha anche il diritto di poter staccare un telefono. Il problema è capire quando questa cosa si pone, come c'è un'interpretazione autentica e originale delle cose che sono state dette. Ma fino a ieri, comunicato che si chiude, che chiude la riunione di Pisapia con i suoi amici, è un comunicato che dice no ad alleanze naturali, forte discontinuità in Sicilia. Noi ci stiamo candidando per questo, io mi aspetto da Pisapia un plauso, non che affidi spesso con interpretazioni un po' eccessive a alcuni dei suoi suggeritori comunicati stravaganti, perché poi sarebbe bello che ogni tanto qualcuno decidesse di parlare con la propria voce invece che affidarsi a coloro che ne interpretano le volontà sul territorio della politica, spesso le interpretano male. Bene, e allora avete visto, le motivazioni di Fava spiegano perché la Sicilia è diventata così importante nella partita a livello nazionale, soprattutto a sinistra. Sentiremo qui a 24 mattino i diversi candidati. Fava, lei chi stima di più? So che di solito si dice no, per me sono tutti uguali. C'è qualcuno che stima di più fra i suoi due avversari, diciamo, per ora? Tre avversari, sì. Ovviamente. Ah, guarda, io conosco Musumeci, è un vecchio collega all'università, lo considero una persona onesta, una persona per bene, considero purtroppo la compagnia di giro che si porta dietro la peggiore zavorra che possa esprimere la politica siciliana. Sembrava una gita scolastica di ex assessori di Cuffare di Lombardo la sua presentazione. E quando tu ti candidi ma non sei capace di dire no alle candidature che accanto a te ti impongono, a quel punto anche se una persona per bene, ma parti già con le pietre in tasca. Bene, grazie, buongiorno. Ci fermiamo, torniamo subito dopo l'interruzione con Oscar Giannino e con un ospite con cui dibattere. A fra poco. 24 mattino. Di nuovo buongiorno, Luca Telese, ed è giunto il momento di chiamare il grande gattone della radio italiana. Miau, eccolo qua, Oscar Giannino. Oscar Giannino, mi piace che fai questo miau. Beh, io sono un po' vecchiotto, però cioè, gli artigli ci sono. Oggi poi è Santa Caria, che la malaria si porta via. Ma lo sai che chiudono la zanzara di Cruciani? Per questo, no. Alcuni pensano, perché sai, alcuni sui giornali sì, per l'infezione, no, perché sai, siccome il livello degli argomenti mi pare sono i negri, sono i bianchi, allora alcuni alla Camera hanno detto: beh, chiudiamo la zanzara di Cruciani. Magari è stato lui, perché il livello è quello. Trasmette la malaria, no, invece trasmette tante emozioni positive. Ma io ho messo da parte per te delle notizie su cui dibattere, fantastiche. La più incredibile è questa: sul Libero, Bekis racconta la storia di una figlia, diciamo, di secondo letto illegittima di Salvatore Tatarella, che ha ottenuto ora un assegno di reversibilità di 519 euro di vitalizio, ed è il primo caso in cui viene concesso un vitalizio a un figlio nato fuori dalle nozze. Ma non è questa la cosa divertente, è che i figli di Tatarella, che sono maggiorenni, non hanno diritto a questo assegno, ma questa figlia sì. Ed è una vicenda incredibile. Ti volevo subito chiedere che cosa ne pensi, perché da una parte l'importo ovviamente non è enorme, no, ma niente è di il personale, precedente quello che vuoi. Ma è... fra l'altro racconta Bekis che la donna, la madre di questa di questo figlio, è riuscito a far pignorare un terzo dell'indennità di buona uscita del Parlamento europeo di Tatarella, poi ottenere un assegno di reversibilità per la figlia e poi un assegno per un orfano di un eurodeputato pari al 20% del suo vitalizio. Quindi, cioè, vabbè, e diciamo complimenti all'assistenza legale. È un bel ma tesoretto. Restiamo al punto vero, perché io non voglio entrare nel merito che a leggi vigenti, allora non applichiamoli solo alle famiglie codificate, ma anche a chi è nato fuori, perché da questo punto di vista non potrebbe dire bene. Il problema è che spero che gli ascoltatori si siano resi conto. Andiamo un po' al merito della politica. Non ho sentito Fava parlare di una politica che a me proprio non me ne importa nulla, chi è amico di chi non si parla con chi, ma chi, robe loro, i vitalizi, no? I vitalizi, cari ascoltatori, per l'ennesima volta ci hanno bugiardato, tanto il ricalcolo dei vitalizi e la modifica della norma non passa in questa legislatura. C'è chiaro che è così, come non passerà lo Ius Soli, come non passeranno molte delle cose su cui hanno teatrato in Parlamento i signori della politica, non passa. Io sono favorevole che passi, non credo affatto che sia incostituzionale, come dicono i soliti sepolcri imbiancati delle ex parlamentari e chi li assiste. Sono anche dell'idea che andrebbe rivisto il meccanismo della reversibilità dei vitalizi, perché tra l'altro io lo rivedrei anche in generale per le pressioni ordinarie nel nostro paese, visto che sono 40 miliardi ai superstiti e bisogna un po' restringerli i criteri. Comunque il punto di fondo è che posso essere favorevole che con questa legge vigente non si applichi solo ai figli nati nella famiglia, sì, sui vitalizi vitalizi dei parlamentari che sono finiti per la riforma del 2013, però in realtà si continuano a pagare per decenni, da sempre ho detto a Matteo Richetti: ti stimo Matteo, ma ti prenderanno in giro, perché tanto questa roba non passerà mai, e infatti in Senato non passerà mai, come tante altre cose di questi mesi. Non so come, Oscar, la pensi tu, hanno preso per i fondelli, assolutamente, perché si sapeva già, ed è la cronaca di una morte annunciata. Però fra poco abbiamo qui Pietro Senaldi, direttore di Libero, per discutere con lui il titolo e l'editoriale del suo giornale di oggi. Però ti volevo chiedere su un'altra vicenda che scopro sul tuo giornale Il Messaggero, stretta sui giochi, sale di mezz'ate, una notizia che ho trovato solo qui, e ti voglio dare un'opinione scomoda, immagino che sarai contrario. C'è un piano del Tesoro contro le slot machine, saranno ridotte drasticamente, ne saranno cancellate quasi una su due, e poi però c'è anche il mini sconto fiscale per i gestori. E tu che ne pensi? Ma io dico: o il gioco d'azzardo è vietato e diventiamo un sano paese puritano e diciamo che la gente ci perde la pensione, la vita, l'anima, oppure, se è consentito, il pannicello caldo di dire: ma ne cancelliamo una su due perché siamo buonisti e poi gli diamo lo sconto fiscale perché vogliamo fare buoni tutti. Ma signori, ma questa è una presa in giro. Tu che ne pensi? Io seguo questa vicenda da tantissimo tempo, perché c'è dietro l'industria dei giochi, perché, ed è questa, ci campa il tesoro, ci campa il tesoro con 10 miliardi e mezzo, stiamo parlando di 95 miliardi di scommesse. È vero che poi agli italiani ne vanno 77 miliardi di montepremi, però insomma lo Stato ci guadagna, e lo Stato quindi da anni e anni ha sempre ampliato. Lo Stato da una parte è biscazziere, perché ci guadagna di più, e infatti, dall'altro puritano e moralista, e dall'altra salva la propria faccia col puritanesimo. Però qui il punto è un altro, posso dirti, che è sempre difficile spiegare al pubblico generalista, anche i colleghi del Messaggero non lo spiegano. 145.000 macchinette tagliate, ridotte da 100.000 a 50.000 le attività. Il punto è che questa è l'ipocrisia vera, nel senso che si concentrano i tagli sugli esercizi commerciali, cioè sulle bar e tabaccherie, sulle vecchie slot machine, e non si toccano le grandi sale delle catene internazionali del gioco, dove in realtà si gioca molto molto molto molto molto molto di più. Allora, questa è l'ipocrisia nell'ipocrisia rispetto a quello che hai detto tu. C'è l'ipocrisia generale dello Stato biscazziere da una parte, e che è tutto interessato a far giocare più gente, dall'altra, e poi la misura che colpisce i piccoli esercenti che magari hanno investito somme. Sai, oggi tenere un bar a margini bassissimi, io ho degli amici che hanno i bar, che hanno perso il lavoro, li hanno aperti, è molto difficile. Tu pensi di investire dei soldini in questo, e lo Stato ogni sei mesi ti dice sì, ti dice no, eccetera eccetera. Ma l'ipocrisia è colpire i piccoli e non colpire i grandi. Allora siamo, è proprio, stiamo parlando veramente di palle assolute, ecco. Allora, Pietro Senaldi, direttore di Libero, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Oggi elettroshock nel leggere Libero, perché voglio dire, cinque titoli uno dietro l'altro, consapevolmente, perché lo dichiaravi nel tuo editoriale, che controtendenza, dopo tutto quello che si è discusso in questi giorni, dico: gli immigrati portano le malattie. Giusto? Sì, io credo che, io veramente sono scioccato dagli altri titoli. Ci riferiamo alla vicenda della bambina di Trento, no? Mi leggo sugli altri giornali: mistero sulla morte della bambina. Allora, la bambina è morta di malattia. Scusa solo un attimo, 800 24 00 24, per intervenire in questo nostro spazio fra pochissimo, prego. La bambina è morta di malaria. La malaria in Italia non c'è. La bambina era stata ricoverata per tutt'altre ragioni. Accanto alla stanza della bambina c'erano due figli di immigrati che tornavano dal Burkina Faso malati di malaria. Chissà come ha fatto la bambina a prendere la malaria. Mistero, dicono i giornali. Mistero. Questa, secondo me, è disinformazione. No, bambina, Pietro, dai, Pietro, abbi pazienza, su. No, Pietro, dai, bambina, e capisco che per vendere siamo amici, ma non dire stupidaggini, non dire stupidaggini. Ma a prendere la malaria. Allora, come si prende la malaria per i nostri ascoltatori? Si prende dall'insetto e non, se non in casi rarissimi, la persona. E non da nessuna forma virale. Siamo il terzo importatore al mondo, siamo il terzo paese importatore al mondo di malaria tra i paesi avanzati nelle graduatorie internazionali. Fammi parlare! Oh! Capito, siamo il terzo paese, e sappiamo perché siamo il terzo paese importatore: o perché c'è gente che opera, va a viaggiare per lavoro o per turismo in quei paesi e quindi lo contrae, o perché, come capita in tutti gli altri paesi, attraverso il traffico, il commercio internazionale, le valigie, arrivano le larve o gli insetti. Quindi si sa, non è che noi dobbiamo apprendere com'è che si contrae la malaria, Pietro, e non possiamo, se facciamo il nostro mestiere, dire che è un problema di bianchi e di neri, capisci? Perché significa lì sì venire meno alla deontologia, al nostro lavoro. Poi dopodiché, no, c'è modo di farlo, sì, capisco che si può fare, sì. Capisco anche, e in questo ti do ragione, la Lorenzin, il ministro della sanità, ha detto forse l'hanno contratto in ospedale. Che un ministro della sanità dica forse prima di sapere, io questo lo ritengo serio. Però aggiungo solo un dato, scusami Pietro Senaldi, solo un dato citato oggi da Mattia Feltri sulla Stampa. In Italia in realtà arrivano 637 casi di malaria l'anno. Però la mia domanda, visto che il titolo di libro è "Dopo la miseria portano le malattie, i migrati affetti da morbi letali diffondono infezioni", e il problema è che quei due bambini che tornavano dal Burkina Faso, casualmente sono stranieri, potevano essere italiani, poteva essere un commercialista. Noi andiamo a fare le nostre vacanze nel Burkina Faso. Ma chiunque può andare in Burkina Faso. Quante volte ci sei stato? Quante volte hai portato tuo figlio in Burkina Faso? Ma che c'entra? Sono stato in altre parti dell'Africa. Sono stato in altre parti dell'Africa. No, facciamo delle profilassi, non porteremo mai i nostri figli. Quindi quei due bambini sono colpevoli, se fossero loro, usiamo il se che... No, sono dei vettori, non sono colpevoli, sono dei vettori. E allora il loro essere immigrati, se sono dei vettori, non conta niente. Ripeto, arrivano, secondo Lancet, difficilmente sarebbero stati punti. 637 casi. Nel loro paese natale, Bergamo, difficilmente sarebbero stati punti dalla zanzara, difficilmente... Ma è pieno di persone che vanno in Africa e sono nate a Bergamo, a Abbiategrasso, in qualunque parte d'Italia. Loro provengono da po', perdonami, è esattamente cioè così, sono colpevoli perché provengono dal Burkina Faso sono originari del Burkina Faso. Che hanno contagiato. Se io adesso a te ti passo la varicella, non sono mica colpevole penalmente. Titolo di seconda pagina, però infettata dagli africani. È innegabile. È innegabile che li hanno contagiati, scusami. Ma quello che ti sto dicendo è che, essendo vettori, come li hai definito, potevano essere africani, macedoni, svedesi, potevano essere qualunque cosa. Potevano essere vettori se venivano da un paese che aveva la malaria. Perché se venivano dalla Scandinavia, che non c'è la malaria, non trasmettevano nulla. Oscar. Io distinguiamo, ripeto, io capisco... Conosco Pietro, conosco quel giornale, conosco la sua storia. Cioè, non è che mi stupisce che ci sia, ripeto, ognuno si coltiva il proprio elettorato. E io non giudico, non faccio un moralista in questo, ci ho lavorato, non c'è mica un problema da questo. Però cosa diversa è dire non sappiamo come si contrae la malaria, si contrae per contatto tra umani. No, uno, sappiamo che non è così. Uno. Due, non è vero che qui non si contrae la malaria. Si contrae la malaria perché, ripeto, siamo il terzo tra i paesi avanzati, col paese che ne importa, tra virgolette, di più. Non si contrae perché non c'è qui l'insetto. Ma cosa diversa è, in Italia non si prende la malaria, invece gli italiani la prendono. Pietro, hai appena detto, è certo che li abbiano contagiati loro. Se avete gli elementi di certezza, ma dateli immediatamente alla procura, perché anche il ministro ha detto non lo sappiamo per il momento. Il motivo vero dedicato è questo: si tratta di accertare, quindi con tutte le perizie le più accurate del caso, come e se l'ipotesi del possibile contagio contratto nel precedente ricovero in ospedale sia avvenuta. Questo sì, questo è un problema fondamentale, perché se viviamo in un paese in cui... Scommetteresti sul fatto che hanno contratto dai due bambini del Burkina Faso o che li hanno contratti da un insetto? Il mio mestiere, perdona Pietro, nel commesso il viaggiatore è arrivato miracolosamente, non si sa come, non miracolosamente non si sa come, come capita in tutti gli altri casi, centinaia e centinaia l'anno, in cui si contrae la malaria nel nostro paese. Non è che non si sa come, lo sappiamo come. Quindi il mio compito non è scommettere, il mio compito è chiedere, visto che il ministro parla prima di saperlo, e a me sembra un po' grave la faccenda, che ci dicano bene se è l'ipotesi di un contagio. Nel qual caso il nostro mestiere è chiedere che sia fatto tutto l'impossibile perché non avvengano i contagi negli ospedali, e ci mancherebbe, tantomeno a danno dei piccoli. Ma secondo, altrimenti, quali misure aggiuntive dobbiamo prendere per evitare di diventare il secondo e il primo invece che il terzo paese avanzato come importatore di malaria, perché questo già lo siamo, Pietro, quindi allora, lo sappiamo come avviene. 800 24 00 24, un primo ascoltatore ci chiama, Claudio, buongiorno da Lucca. Buongiorno Telesi. Buongiorno. Che lei e Giannino siete due grandi giornalisti. E per questo. Grazie per aver incluso anche Oscar. Per questo che dovreste fare una selezione dei vostri colleghi. Non si può far parlare le persone che hanno al cervello un cervello unicellulare come questo giornalista che ha parlato poco tempo fa. No, però noi facciamo parlare tutti. Scusi, questo Giannino, è un po' uno spirito del programma. Signore, siccome accusa me, rispondo io se non si piace, perché so difendere. Gli ha già risposto Giannino. Ha già detto quello che lei pensa. Io capisco che lei rispondo a lei, non rispondo su un giornale. Ma cosa vuole rispondere? Ha detto delle sciocchezze. Scusi, mi chiama in trasmissione e io non rispondo. Ma lei ha chiamato me. Mi rende conto? Dicendo che sicuramente la malaria a questa bambina è stata trasmessa da queste due ragazze. Mi hanno già risposto. Io eviterei ai grandi giornalisti, come appena elencato, di parlare con giornalisti unicellulari. Sentiamo Pietro, dai, Pietro, sentiamo rispondi. Pietro, certo. Allora, a me questo signore qui, perché mi sta simpatico? Perché mi fa un grande favore. Sì, mi sta simpatico. Perché continua a dire che la malaria in Italia non esiste, che l'immigrazione non è un problema, che l'Italia è un paese che fa gli stessi controlli degli Stati Uniti sugli immigrati, che viviamo tutti liberi e belli intorno alle mura vaticane di Papa Francesco, mi fa solo un grande favore. Perché è una persona che non vede la realtà e a me permette di descriverla. Però lui non ha detto questo, ha detto che i ragazzi erano in un altro reparto. Ma su questo non rispondo perché non mi sento offeso. No, ma io rispondo mica, se uno mi dà del deficiente senza conoscermi niente, probabilmente senza aver letto il mio articolo, non mi sento mica offeso, Luca. Lo abbiamo citato in rassegna stampa, chi vuole può comprare Libero, ovviamente noi, io e Oscar siamo civilmente dissidenti, no, certo. Luca da Milano. No, unicellulare mai. Io vorrei anche intervenire su questo fatto, semplicemente soltanto solo, però sulla malaria ci sono alcune cose da dire, innanzitutto magari l'hanno preso da loro, è ancora tutto da accertare, ma la malaria non si passa per contatto aereo, non è che si prende un'influenza e passa, ci vuole un vettore, questo vettore non è la zanzara tigre che passa per le nostre città, è una specifica zanzara che ti deve beccare, insomma la sfiga ci dovrebbe vedere molto bene per prenderti, e tra l'altro sul fatto di persone che vanno in Africa, io sono architetto, lavoro con delle ONG in Africa, sono stato in Africa tante volte, la profilassi non ti aiuta a non prendere la malaria, ci sono i tempi, i gradi di malaria, se fai la profilassi magari ti salvi, la volta dopo becchi con la più potente. Abbiamo raccontato la storia di Flavia Fratello, conduttrice e giornalista della Sette, che ha preso la malaria e fra l'altro le avevamo detto che era soltanto una leggera influenza, non l'ha presa da stranieri, ha fatto un viaggio, l'ha presa e quindi è arrivata in Italia malata. Prego, scusi, ho interrotto. Fanno fatica poi quando tornano indietro magari a constatare che hanno la malaria, perché da noi effettivamente non c'è e non tutti la sanno riconoscere al momento. Tra l'altro poi comunque io come tutti i donatori sanno, in realtà anche in Italia ci sono zone che ancora sono a rischio, la Romagna in particolare, comunque quando vai a donare il sangue ti dico: lei ha passato più di un mese a Rimini o Riccione? Sì, perché nel caso non può donare perché ha rischio malaria, quindi non è che non è... Questo io non la sapevo, vedi? Cioè, si imparano Milano, tante cose. A Milano sono particolarmente attenti a tutti, comunque la malaria non si passa né per tocco, né per respiro, né perché il domo di fianco a un malarico, cosa che io ho fatto, ma la malaria è un'influenza che ti rimane addosso, punto. Grazie Luca. Un mio amico inglese, scrive un nostro ascoltatore, ha contratto la malaria durante un viaggio in Pakistan, ma nessuno dei suoi amici o dei familiari è stato contagiato. Ditelo a Senaldi, risparmio epiteto. Per Telese e Giannino, sì, la malaria è importata dagli immigrati, il re è nudo, Ulisse, quindi ovviamente opinioni diversissime. Prego. Io non ho mai detto che la malaria si sia trasferita via aria, io ho detto semplicemente e scritto che probabilmente l'insetto ha punto i bambini infettati e poi ha ripunto la bambina. Quindi io so benissimo come si trasferisce la malaria e l'ho scritto. Sì, ma la cosa è fare il titolo: gli immigrati trasmettono malattie infettive, portano la miseria, importano la miseria, importano le malattie. Qui stiamo parlando di due bambini che erano ricoverati. Potevano essere qualunque tipo di bambino. Se c'è un problema di profilassi, riguarda l'ospedale, e qualunque fosse la nazionalità, sicuramente non riguarda il problema degli immigrati in generale, riguarda quei due bambini che purtroppo erano ammalati, qualunque nazionalità fossero. La malaria dall'Africa. E allora chiudiamo l'Africa. Ma scusa Pietro, però non sei troppo intelligente, che facciamo? Chiudiamo le porte dell'Africa, non si può andare più in Africa, eccetera, eccetera. Io ho detto, la malaria che ha ucciso questa bambina è stata portata dall'Africa, è un dato di fatto. Permettimi una cosa, scusami Luca, noi siamo un paese organizzato, siamo un paese che ha una splendida gestione del fenomeno migratorio, siamo un paese che funziona. Non è così. Ma siamo qualunque paese, persona che è in Africa finire, può portarla, siamo quindi. Siamo un paese alla deriva. Sì, siamo un paese alla deriva. Ok? La gente perché migra? Per migliorare le proprie condizioni di vita. Siccome noi non sappiamo gestire la gente che viene qui, anziché migliorare le condizioni di vita di chi arriva, peggioriamo le nostre. Fabrizio D'Ancona. Siamo degli incompetenti. Chiaro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Dunque, adesso magari sulla seconda domanda che avevo già stavate forse un po' rispondendo. Comunque vado ad elencarle. La prima, secondo me è gravissimo che il ministro Lorenzin si sia esposto non sapendo niente, perché magari adesso si parla giorni e giorni e poi da un'approfondita analisi esce fuori che non è stato proprio così, ma è stato cos'ha, e si è parlato per il niente. Il secondo aspetto che invece magari mi preme anche da papà è capire un attimino come mai, se la bimba si è ammalata di malaria, avendo già in cura la stanza al fianco anche due bimbi che della malaria la stavano curando, come mai non, diciamo così, non sono accese le spie d'allarme, ecco, come mai questa bambina ha avuto... Giusto. È stata curata per la malaria, quando magari poteva anche essere evidente che determinati sintomi potevano portarla alla malaria. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Ancora una chiamata, Carlotta da Verona e poi Senaldi e Giannino. Grazie, buongiorno signori, ma la domanda era la stessa che ha fatto l'ascoltatore che ha chiamato prima di me, quindi ascolto la vostra risposta. Sì. Un messaggio furibondo di un ascoltatore riminese che dice: a Rimini si beccheranno altre cose ma non la malaria, non propaghiamo cavolate. Abbiamo spiegato molto bene che è un'estrema forma di profilassi, lo ricordava fra l'altro un ascoltatore riguardo le donazioni. Allora, chi vuole rispondere? Oscar? No, ma io non ho praticamente niente da aggiungere. Una volta che abbiamo chiarito che sappiamo che ci vuole un vettore che non è aereo e tra persone, uno, due, e che c'è un punto istituzionale molto chiaro da capire, di identificare con precisione che cosa è avvenuto per mettere in atto tutte le cautele che in questo caso evidentemente non hanno funzionato. Terzo, come si vede da quello che dice legittimamente dal suo punto di vista, per il mestiere che svolge, la responsabilità che ha al libero, Pietro Senaldi, poi resta un'opinione generale: più immigrati, meno immigrati, chiudere, aprire, e come gestire il fenomeno, che è l'unica cosa che mi interessa più che chiudere e aprire in generale. Poi capisco che come per prendere voti si può estremizzare, ma su quello io non intervengo, perché ognuno lì è titolare di una opinione. Io sono per un controllo ferreo del fenomeno migratorio e condivido l'idea che da 30 anni 25 non abbiamo saputo darci un modello. Detto questo, sto molto attento per il mestiere che faccio a veicolare idee sbagliate a chi ascolta o chi mi legge. Ecco, nel caso di cui parliamo, io anche, come chi ha telefonato, ho detto per primo, voglio sapere se è successo qualcosa in ospedale. In ospedale che cosa può essere successo? Il contatto tra bambini? No, che abbiano usato materiale non monouso. Allora, se è successo quello, può essere avvenuto il contagio. E lì è gravissimo e non c'entra niente, ancora una volta, l'immigrazione. Certo, sarebbe potuto accadere in qualunque stanza. 10 secondi, Senaldi, per chiudere. No, guarda, io faccio segnalare semplicemente questo. Il fenomeno, come ha detto anche Oscar, dell'immigrazione non è controllato. Noi adesso i nostri bambini non andranno a scuola se non sono vaccinati, ma prendiamo gente a milioni senza sapere nulla delle sue condizioni sanitarie. Bene. Ti sembra normale? Ok, il tempo è finito, non è sicuramente una censura. Grazie a Oscar, grazie a Pietro Senaldi. 24 Mattino torna domani. Ciao!